granito lo facciamo, cacchio, una cosa in cristallo, una cosa bellina, anche illuminata. Pigiama, vengo a svegliarvi la notte, dopo la mezzanotte. Allora, scusate, ma ufficialmente non mi siete capiti perché ho ricevuto telefonicamente. Mi tocca dire che Roberto Antonè sta impicciato, si è diventato un forte la piazza di Sigli. Un forte, ce l'hai vicino a Roberto, ma altro discorsi. Ho detto che quando non ci sono più, mi sveglio la notte, esco, in pigiama, ho detto, e vengo a svegliarvi tutti, uno per uno. Antonè, quando non ci saremo più, io ti porto il video del funerale, tutto quanto, cosa c'hai, MP3, di un CD, DVD, cosa ti porto? Ma mi faccio mettere tutto, un attimo a casa, mi faccio mettere il baracchino con il canale 10, hai capito? E il timer. Ce lo porto su in MP3, Fabio, mi raccomando, MP3 glieli portiamo su, i file compressi, e così poi li fa vedere a tutti. Amico, guarda, tutta la gente piangendo al funerale di Antonello, funerale di Roberto. E ha sarebbe da fare, più che MP3 facciamo in formato MP4, dai, compressione media, così in una schedina SD, micro SD ci sta un bel di roba. Perché poi bisogna fare anche le interviste, la gente, diciamo c'è un po' di materiale da vedere, dovrei chiedere cosa faceva Antonello, è tutta una brava persona, cacchio, c'aveva una bella posizione, ci è mancato tanto. Le fotografie delle stazioni, le stazioni delle antenne, Antonello con il soldatore in mano, Antonello con gli occhiali da lente, Antonello che ne esce dalla camera dove era il laboratorio col dito bruciato, lo mette sotto la mattina, tutte queste cose. Di tutto facciamo un coso, un collage e mettiamo tutto in mezzo, dai. Poi Riccardi, tu sarai l'ultimo e poi alla fine porterai tutto su, dai. Cosa vuol dire sarò come il mio baracchino, faccio uno scatto dopo, mi salta la scintilla in testa dopo un secondo. Comunque io vedo sempre portante, chi è avanti che vuole entrare? Qua. A te, Robè. Qua è 9.10, a te quanto ti arriva, Robè? E anche di più qua. Poi c'è una che sovramodulava anche a Fabio. Ognadi venne una. Ma scusa Marco, che fa solo sotto. Ehi Fabio, ognadi venne una qua. Portanti e portantine, ognadi venne una. Oh yeah, ogni tanto gli sono la sirena del telefono. Certo che caspita, se squilla quando sei di notte, ogni assusto. Spavento si dice, non assusto. No, facciamo così Antonio, la tua mente la trasferiamo in un computer in rete, tipo intelligenza artificiale. Mi adesso era un altro CB che era al telefono, questo è quello più anziano, quello prossimamente è questo. Se ci sente guai mi picchia, no, non sono riuscito a parlare, e parlava, si sentiva un rumore, poi probabilmente era in macchina, non si capiva. Dobbiamo fare l'ordine in base all'età, dai, stiamo scherzando naturalmente, auguriamoci di arrivare a più la tardi possibile tutti sani e non avere dipendenze di nessuno, solo quello mi auguro io. Infatti dai, un bel auguri, poi detto per l'antenna, ma c'è di nuovo la batteria scarica, cioè ci vuole un mutuo per avere un MT-100 ragazzi, dati voi di aprire dei microfoni economici. Sta arrivando meglio, il QRM è calato, Fabio. No, sono io che sto prendendo più forte il dato. Oh yeah! No, tutte e due, mi sembra più alto il segnale e il QRM comunque è calato, era una cosa temporanea. Mamma mia, c'ho la gola tutta afona, è una cosa allucinante. Che ha detto Gianni, tu sei? Buonasera, non posso dire nulla che subito mi sgamano. Buonasera a todos. Sera Gianangelo Rum. Ciao, ben sentito anche a te Riccardino, a tutti gli amici, dai. Avanti Marco che mi ha fatto entrare e poi fai girare. Sì, c'è Fabio, Pomponio, Leoncino si è allontanato, Roberto, Riccardo, che altri c'è? L'ho detto già Riccardo, Riccardo al quadrato, dai diciamo, vai Riccardo. Sì, l'ho salutato a Gianni, grazie, facciamo andare avanti Roberto che non ha salutato a Gianni. Ciao Gianni, ben sentito, come l'ha chiamato a Gianni Riccardo? Angelo Rum. Angelo Rum. Gian Angelo, Gian Angelo. Ah, così, nuovo nominativo, va bene. Ok, dai, vai Gianni, riprendi. Sì, allora lo chiamo Riccardo Fogli adesso. Riccardino Fogli. Tu lo chiamavi Giacomino. Ehi, Giacomino, non mi veniva mai il nome, è una cosa allucinante. Giulio lo chiama Ribartino, Robertino. Mi sono trovato un altro nome, Ribartino. Questo è il peggio di Torino Kawasaki, che diventa Topino Cavatappi. Non fa sentito, va bene. No, ieri ha detto Tocchigno, ti c'eri quando ha detto Tocchigno? No, ma mi stavo ascoltando. Ma tu poi quando hai parlato, Fabio, dove eri? Me lo spieghi? Oh, ero via con il sole, nella QTH, con un portatilino che ha un cappettino troppo sottile, e quando lo alzo a 4 watt da problemi di radio, tant'è che di solito lo uso un watt, con quel cappetto va bene. Non ho fatto la prova a calare un watt, ma c'era coso Gianni Profetta che già lo riprendeva a 4 watt, durante un watt. Fabio, peccato che io non c'ero, che ero fuori sede, come dice un CB, se no ti avrei riconosciuto subito, come l'altra volta. Ehi, l'altra volta in quelle condizioni, Roberto, però importante, dico due parole, contate, e Riccardino fa, avanti master, roba da mano. Ciao, l'orecchio abituato, dai, orecchio di porco, di porcellino, dai. Allora, mettiamo appena di ultimo, ci provo io. Avanti Antonello per i salutoni a Gianni Doppio Rumma. Sapevo che lo stai lì. Ma io salutami tu e poi fai girare. Hai ragione. Ciao Gianni, ben sentito. A te il Mike, fai girare. Io rilancio tutto quanto a chi tocca Antonello, ci sei? Sì, ci so, ci so. C'è il pubblicato su 45. Se ti vuoi fare cosa strano? Adesso ho fatto conto che c'è la propagazione. Ma stasera c'era un po' di propagazione, abbiamo parlato con la Sicilia, con Castagno mi pare. Sì, ma per noi ho parlato al telefono con... mi è arrivata questa, mi è arrivata la richiesta d'amicizia, mi ha chiesto come stavo, eccetera, eccetera, poi mi ha detto... c'era il WhatsApp, quando mi ha detto così, ha detto ascolta, fa una cosa, gli ho detto sloggia che non vai a giocare lì, soldi non ne ho, alla parte qualcun altro, gli ho detto. Avanti. Adesso ho cambiato antenna, ben arrivo. Sì. Via 5-6. Questo è Riccardo? Sì, lui è. Perché è 9? Vuol dire Polo? Sì. Poi io mi allontano un pochettino, dai, ci sentiamo dopo se coincide, dai, ciao Riccardo, ciao Antonello, ciao Marco, ciao Fabio, ciao Gianni, Natalino e tutti gli amici, dai, eventualmente ci sentiamo dopo, mangio qualcosa adesso, ciao ciao. Ciao Marcello, Roberto, buona carica e buon tutto, Antonello. Ciao Roberto, ci sentiamo dopo. Quindi oggi eri in camper, Fabio. No, mega tempo. Non ho fatto nessun giro, oggi ero incollato qua, andato per cambiare perché è adesso non posso ancora scollare il gazzino. Ma che io sono pronto, non è, sono uscito stamattina, a verità adesso ti stavo per chiamare, mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e 20. Ho fatto il canale a fare l'appetito, ho visto che Gabriele era aperto, mi è venuto in mente gira, chiama Fabio, ho detto ma se mangia la una la madre, ma qui ci viene. Mi sono bevuto la birra, lì poi sono andato a casa, ho pranzato perché avevo fatto pulizia e tutto, pranzo eccetera eccetera, non ho fatto neanche muovere la Simona, perché sta facendo come il poliziotto del commissario Montalbano, capito? Quando si alza dal letto, boom, all'alvario, e mi vengono la sincope a me e al cane anche. E quindi, hai capito, sono stato tutta la mattina a casa, sono uscito solo quei 10 minuti giusti, mi tanto di bermi la birra fresca, poi la sono fatta alle 2, e poco fa me l'ho bevuta una, a cena. Anche perché sono a lascio, sono arrivato a ventella questo periodo qui, speriamo che migliora un po' di gambe, almeno la porta a fare la passeggiata. Anche tu devi stare attento, poverino il cane che si preoccupa, che le sta presso, cucciolo, capito? Gli animali, guarda cosa sono gli animali. Quello che mi ha fatto ieri, lui vede. Io sono uscito, no? Sono sceso giù a buttare la mondezza, poi sono passato la Giovanna un secondino, prendo, salgo sopra a casa qua. Mi metto vicino al tavolo, pronto a cenare, ragazzi, non mi vedo il tavolo con questa cosa gialla. Cazzo, controllo, mi ha pisciato il melone, mi ha pisciato, cioè ho dovuto buttare il melone piccolino, cazzo. Me l'ha pisciato apposta e anche il frigo l'ha pisciato per puntiglia, perché sono uscita, non l'ho portato. Ma vai da tu, per puntiglia, capito? Per puntiglia, te che fuori. Sembra una persona quel cane, poi quando ti guarda sembra che ti stia parlando, è terribile. Lo so, ma vale, c'è mezzo andato, quello si è zampato, cosa vado, mangio me lo vedere. Di ruina sua, non saranno. Mi ha dovuto pulire tutto il tavolo con il cassatore. Ma ieri l'ho fatto nuovo, l'ho fatto il cane, è stato tutta rotta che non si è avvicinato. Poi stamattina presto è venuto moscio, mi ha, come per dire, ti chiedo scusa per quello che ho fatto ieri. Qualsiasi di colpa, capito? Vedi ce li hai i cani, Riccardo. Bello Riccardo, pochi cani che c'hai. Sì, quanto sei basso così, sembri tutto piccolo. E scappa, ma questo da parecchio è, lascia perdere l'antenna. Va bene, lasciamo perdere l'antenna, ho fatto un tanto, intanto ho fatto scappa, cos'è? Quello che c'è sulla destra, cioè quando tu vedi sei davanti al trapparecchio, quello principale, te lo trovi nell'altra parete sulla destra. Ah, beh, quello è l'osso. Ma quello bisogna collegarlo, io sono troppo curioso, cioè secondo me funziona troppo bene, ricordi. Sì, intanto da presare la foto piccola. Volevo scambiare due parole con tuo padre, dopo ti faccio una pasta e magari mi passi un attimo papo che avrei voluto dire due cose, cosa ne dici? Scappa, va bene, vada per la foto. Allora, facciamo girare un po' la ruota. Gira la ruota e io compro una boccale. Gianni, tu cosa compri? Cosa compro? Io ho comprato una boccale, tu cosa compri? Una consonante. E ci mettiamo a scrivere le parole. Ma dai, Coppa, a proposito, ti volevo chiedere una cosa. Ho piazzato l'apparecchio, quello modificato in macchina, e l'ho attaccato all'attaccaccio dei sigari. Sembrava che la corrente, quello non assorbisse più di tanto, però premevo la portante e non saliva manco la lancetta, correva e non se ne sentiva. L'antenna era attaccata, con l'antenna lì l'ho usata, attaccandolo alla batteria con un altro apparecchio che funzionava bene, perché sono arrivato a Santiago Otola sotto casa. Non capisco cosa sia. Gianni, è un classico difetto di massa, perché io sono sicuro che tu la magnetica sei stato molto attento quando l'hai messa sulla macchina, logicamente isolata, la massa che passa per lo spinotto non è sufficiente, in realtà c'è qualche differenza di qualche mezzo volt. Questa mancanza di massa ti porta esattamente a quello che hai detto, però se è importante, se manca la massa vuol dire che l'uscita è sbilanciata e io non sono in grado di dirti cosa succede nel finale, capito? Comunque io l'altro giorno ho fatto una prova, ho messo volanti, due cavi alla batteria, ho lasciato il cofano aperto e ho messo quell'antenna che ho usato ieri col modificato, ho messo quell'antenna lì e da sotto casa sono arrivato a Claudio Santiago 8, quindi vuol dire che l'antenna sta andando. Ma l'antenna può anche andare, ma non sai come. Sarebbe da attaccarci un rosmetro per capire. Che poi, vabbè, poi tra il rosmetro e il cavetto, magari stati tutto, le condizioni sono un po' diverse. La verità è che ci vogliono due capi fantasiosi che partono dalla batteria e che arrivano all'apparato. Poi, possibilmente, bisognerebbe replicare la massa anche sull'antenna. e poi vedere come fa. Andare anche su una spigata, è molto piccola, eccetera, eccetera. Però usa molto la massa, capito? Se non quadra con la massa, non va. C'è qualcuno che chiama sul canale 10, avanti. Da Napoli sono. Oggi c'è propagazione da Napoli, di brutto. Sì, anche poco fa ho visto che c'era un sacco di gente che stava arrivando da di giù. Già lo sai che funziona la propagazione, no? Come si chiama la propagazione? Attento Napoli, se ascolti l'isola sarda. Sì, avanti. Scappa, dai, stazione doppio rum della città di Sassari che ti supercorrializza, avanti. Amico, ti ascolto il filo del QRM, comunque non è nato nel Reggio Calabria, la provincia di Reggio Calabria. Scappa Reggio Calabria, dai, mi sembra la zona di Napoli. Scappa, ti saluto, dai, 7351, qua c'è questo locale, non so come ti stia arrivando adesso, dai. Era abbastanza più forte, ora ci siamo, ora ci siamo. Tu Sardegna? Scappa, la città è Sassari, Sardegna. Dove che non ho bene? Sassari, Sardegna. Ok, benissimo. Ben ascoltato, io sono Daniele, mi trovo a Tauriano, in provincia di Calabria. Scappa Daniele, hai ascoltato al 100%, sapevo per te da 7 a 9, ciclante, la radio di Cipria Bomboletta, dai. Non so un segnale mio come sia, però tu arrivi molto bene, dai. Ora stai arrivando 5-6 oscillante, colora buona, comprensibile, vediamo come ti arrivo. Vedi se ti arrivo meglio ora, ancora un pochettino meglio ora come segnale. Da 9 a 9 10, quanti watt stai usando? Parecchi, 500 quasi. Sì, no, va bene, dai. Ti saluto, dai, non so se c'è qualche amico che vuole parlarmi, Riccardino, avanti. Ok, grazie Gianni, saluto l'amico, se ho capito bene, Reggio Calabria, saluto 73 per te e se gli potevo chiedere se non lo disturbavo un controllino. Attenzione alla Sardegna se mi ascolta ancora. Scappa, mi hai ascoltato Riccardino, la nostra mascotte della frequenza, avanti Riccardino. Ok, io non me... Reggio Calabria non mi hai ascoltato. Deve essere che forse sono troppo basso, devo, non lo so, non posso neanche aumentare, sto uscendo con quei pochi watt che ho, e vabbè, comunque, se non mi ha risposto allora non mi ascolta, riprovo, Reggio Calabria, mi ascolti? Ti ascolto, Riccardino mi pare, ti ascolto, sì, ciao, sono Daniele qua, in provincia di Reggio Calabria. Ciao Daniele, ok, ti avevo chiesto se me lo potevi dare per caso un controllo, comunque tu stai arrivando bene, come fai il passaggio te lo do anch'io un controllino. Guarda, da me sta arrivando, la mia antenna sta arrivando 5 oscillante 6, 5, 6, e la radio così perché si mette un pochettino con il QRM, di ascolto, invece il mio segnale lì quant'è, Riccardino? Grazie Daniele per il controllo, tu stai arrivando Santiago 9 con un po' di QSB, scendi a Santiago 7, la radio comunque è buona, ti ringrazio per il passaggio e facciamo venire avanti un altro amico del nostro stesso QTH. Ha fatto me, provaci, non ti ascoltate perché ci sono dei camionisti qua sull'autostrada che mi arrivano abbastanza, quindi non ti ho ascoltato, gentilmente ma pesante, gentilmente sul 5, grazie. Posso? Avanti, chi è? Buonasera, 7351, Tino Muscolo. Un controllino anche a me si può avere, grazie. Certo, come no. 78 a Toria Nova in provincia di Reggio Calabria. Non so da dove stiamo volando tu. E se mi ricambi il collo ti ringrazio. Sì, saluto netto la ruota comunque, vai. Stessa zona di Riccardino, vai, città di Sassari, sempre in Sardegna, stiamo modulando qua in zona, diciamo. Il tuo controllo, il tuo segnale è 79, oscillante. Buona, buona radio, buona tutta. Benissimo, benissimo. Il nome Sassari. Positivo, vai, Tino Muscolo, Fazione Muscolo. Ok Pino, è un piacere ascoltarti, a te Pino! Sì? Della Sardegna, in Sassari, vi ascolto tutte e tre abbastanza bene, io sto andando con 48 stile camionista modificato, insomma che dà lezione, una antropo e il 2, il Zetaggio 2002, ok? Non so chi c'è in ruota, ho sentito, se non mi sbaglio, Gianni, ci sei? Tino. C'era anche a te, dai. Stiamo usando un po' di fatto. Tino. Noi diciamo piccolini. Tino. Sì, buonasera. Arrivi chiaro a Milazzo, sulla CDR. Addirittura, caspita, allora sta andando bene la cosa. Arrivi meglio che l'amico, vabbè, che è troppo vicino, quindi di propagazione. Se tu metti Milazzo CDR, metti questo canale, ti senti da solo. Mi sento anch'io, mi senti? Prova? Io bassissimo però, c'è un ritardo di un secondo. Sì, ho capito. Vabbè, non so chi c'è, ciao Riccardino, no, ciao Marco, ciao Gianni, non so chi altro c'è. E l'amico invece che stavamo modulando, come si chiama? Ti saluto anche te, ciao Ustino, ben ascoltato. Ciao Riccardino, forse l'hai solo modulato. Com'è l'amico, come si chiama? Non ho capito il nominativo. Mi chiamo Daniele. Ah bene Daniele, ben ascoltato, scusa, non ho fatto ascolto, sono entrato giusto perché ho sentito nella zona in cui eri. Ho capito. Comunque mi pare che hai detto pugliese, no, non è pugliese, calabrese. No, calabrese, no. Va bene. Ok, prova a cambiare il radio, vediamo se mi ascolti. Proviamo a far andare avanti Marco un condor, quanto arriva. Vai Marco. Un altro break, mandatelo avanti. Anche tu arrivi Gianni, però Tino è il più forte. Avanti break. Tino. Tino. Avanti. Chi è che ha breccato? Avanti. Sì, avanti, sono qua. Ok, Pino, io sono Daniele, vedi che qua c'è un amico mio di un paese vicino, ascolti, è Condor, avanti Condor, ok, positivo, ciao, di qua Condor, buona tutta la canaletta, ascolti? Sì, ascolto, anche noi abbiamo un condorino qua a Sassari, Marco Condor, nostro collega diciamo CB. Sì, ti ascolto, Santiago 7, un pochino più basso il Daniele, però ti ascolto. Positivo, arrivi bello, però il QRM non è stabile, qua la variazione è stabile, è bello. Sentito, avanti per te. Ok, benissimo. Vedi che ti lo scritto. Se mi ascolti ancora un pochino, vedi un pochettino se ascolti contro. Ma non perché c'è un pochettino di stare qua, Riccardi, tu mi sa di è un attimo la chiamata, è Riccardino, non Robertino, Riccardino. Ah, ok, scusami Riccardino, vedi un pochettino se ascolti qua l'amico Conor. Robertino e si deve essere allontanato, dai. Comunque io a Condor non ascolto, Gianni doppio run da questa parte, Gianni doppio run, Sassari. Vi siete sovrammodulati, vi siete sovrammodulati e non abbiamo capito niente. Chi è che ha sovrammodulato? Non lo so, forse eravate tutti, forse eravate... Vado per Condor, ascolta. Calma, dai, Condor, non so se tu mi ascolti, dai, io ti ascolto, Santiago, sì, 6:30, la radio è buona, dai, avanti Condor. Ascoltando, comunque lo saluto cordialmente, Condor, ti saluto, ho fatto la rimano, avanti. Niente, qua ci sono solo modulazioni. Vabbè, dai, io mi allontano 2 minuti, vai per me, Daniele. Ok, ok, ok. Riccardino, ascolti, Condor. Riccardino si deve essere allontanato, forse l'hanno chiamato per cenare, dai. Scusate un attimino, c'è un amico che sta chiamando la Sardegna, avanti, chi è? Com'è? Come ti chiami? Pasquale, ciao, 7351 anche a te, dai. Sei bassino, io ti ascolto bassino, non so se l'amico Gianni Doppio Room ti ascolta, Pasquale. Comunque ritieniti salutato, qua dalla nostra Sardegna, avanti Gianni. Ehi, un attimo, già l'ascolto, sì, Tino, l'ascolto, passo passo ma l'ascolto. Adesso è entrato un altro con questa voce citofonica, non so chi sia. Beh, c'è stata una sovrannumerazione e quindi non siamo riusciti a capire chi era l'altro amico. Avanti. Penna bianca, se ho sentito bene, giusto? Bene, K, dai, saluto anche a te. Ci sono un po' di sovrannumerazioni da loro per farti, Quindi qua ascoltiamo, diciamo che arriva un pochino più forte. Vai Gianni, anzi Marco, ripeti tu che sei in bianco, dai Marco. Marco Condor da Sassari. Non c'è non è più da fare niente. Avanti Riccardo, ci sì. Fabio. Kappa, proviamo, vai. Attento l'amico, se ascolti Sassari da questa postazione, Fabio Master che ti chiama. Ciao Fabio. Lo ascoltate Fabio Master? Avanti, ti chiama la Sardegna. Chi è che ha detto attenzione amici della Sardegna, avanti? Si sovrannumerano, eh? Un attimo, uno alla volta, radio spinta, avanti! Uno alla volta, se no non si capisce nulla, dai, radio spinta, avanti! Gianni, mi ascolti con questo? Ehi, Gianni? Sì, ti ascolto, Tio. Com'è? Troppo forte, com'è? Io sono in cuffia con il volume basso. No, va bene. Sono con il volume basso, ti ascolto. Vabbè, sto provando un più 5 nel Lincoln, ma mi dà la... quando vuole il mic mi dà il segnale un po' ritardato, se tu schiacci in fretta per dare una risposta mi dà mezza parola, capito? Non è immediato lo stacco. No, ho capito, ora c'è il bip per caso. Cosa? C'è qualche bip inserito per caso, no? No, non mi risulta, però non so perché è così ritardato, devo guardare. Io là, parliamo noi e basta, sennò i noghi non si legava bene. Andiamo sul canale o Fabio, gli altri, dai. Tanto qua si sovrammuta, è un casino. Non lo so. Com'è questo Gianni di segnale? Guarda un po'. Hola. Poi mi dici anche la modulazione se vuole alzata o abbassata, Il più 5 sto utilizzando. Lo scritto ancora. 9:30. Provincia di Reggio Calabria. Attenzione, Reggio Calabria, ascoltate l'operatore doppio rum della città di Sassari, Gambia. Adesso gioco anch'io, aspetta. Un pochettino, passaggio a metà. Avanti di nuovo per te. La stazione doppio rum, città Sassari. Attenzione, Reggio Calabria, ti ascolti qua. Nonché Aperator Tango India 90 Oscar dalla città di Sassari che chiama Becco. Primo amico ci sono, tu mi ascolti a voglia. Benissimo. Ci sono altri due amici che ti li faccio venire avanti, vediamo un attimo se li ascoltate lì a Sassari. Avanti, nuvola nera. già. Scappa che ti ascoltiamo, dai. Vieni avanti, la stazione doppio rum della città di Sassari che ti super cordializza. Scappa che ti do il segnale. Tra 6 a 7 e mezzo con due sui piti. Già, avanti un po' massina, non è tanto alta, ma ti ascolto con due sui piti, dai. Non so come mi stia ascoltando tu. Sto provando l'eco del Galaxy Saturn Echo, dai. Sardegna, Sardegna, si ascolti la città del Sardegna. Attenzione Sardegna, ascolta la città del porto Capanna. Attenzione la città del porto, si ascolti la Sardegna. Ascolti la città del porto Sardegna. Positivo 7351, anche qua da parte nostra. Quanto mi dicevi K, segnale e modulazione, grazie. Santiago 8, Radio 5. Io qua ti ascolto Roma 5, Radio 5, l'amico del mondo, avanti, contraccambia segnale alla stazione di più lungo. Città di Sardegna, se copi qua Radio Conto, Polizio Calabria. Dammi un controllino per favore, vedi un pochettino che segnale faccio lì. Santiago, con Silvia 9, con la radio e 5, avanti. Poi mi contraccambi il controllo, ti ringrazio. Positivo, tu metti Santiago di 8, modulazione 5. Bene, contraccambi anche a me, grazie. Tu arrivi Santiago 8, Radio 5, contraccambi il segnale, grazie. Tu mi fai il segnale di 7, oscillante 8, modulazione 1. Chiappa positivo, grazie. Amico, quanto ti arrivo io invece lì? Qua sono lì, quanto mi ascolti? Tu che fai 995 Radio 5, eh? 915 qua, 915 Radio 5, capito? Ok, ok, amico, ti mando avanti ancora un altro amico, numero qua, avanti numero nera. Oh, io mi sposo, se no facciamo questo locale. Fabio, andiamo su 15. Nuvola nera qua, 78, 78 Radio 5, Positivo, grazie. Bene, positivo, dai. Ok, vi saluto, mi sposto di canale che vado sulle altre bande. Ok, ciao, 7351 anche da parte nostra, dai. Ciao, ciao, ben ascoltato, Sardegna, ben ascoltato. Ti saluto, Daniele che sta nella provincia di Reggio Calabria, Paura Nuova, cambio. Ciao Daniele, un abbraccio, ciao ciao. Ciao. Avanti Spagna, la Reggio Calabria che ti ascolta, la stazione di Daniele che ti cordializza. Daniele, Alfa India, ecco lì, cambio. Brecco, brecco, canale 10. Brecco, brecco, canale 10, avanti. Ok, 30 divisione, il segnale sta scendendo notevolmente, ti ascolta il volto, mi arrivi con un segnale 3-4 qua alla mia station, 3-4, io quanto ti arrivo in Spagna, amico, signal, my signal. Ok, ci sono due amici, due compagneros qua con me, te li faccio venire avanti, vai nuvola nera per la spalla. Se n'è andato, papà. attenzione al canale 10. Guardo pezzo, ora la settimana lo facciamo, urgentemente. Attenzione 10, brecco. Manca colpo qui, asse. Ah sì, ho un pezzo, ma un pezzo, vedete, ma moro prendo. Avanti, Valencia, Valencia. Avanti, chi c'è su 10? Sei arrivato? Ciao Roberto. Chi sei? Fabrizio. Ah, ciao Fabrizio, non te l'avevo riconosciuto. Che radio? Quella di Riccardino. Oh, bella, sta uscendo bene, molto chiara e pulita. Quello di Riccardino c'ha un problemino, Fabri. Probabilmente, secondo me, dal microfono, che ti dà un mezzo secondo di ritardo. Cioè, lui quando schiaccia la portante gli mangia un pezzo di coso, di modulazione. Tu hai detto suonerele, però è troppo ritardato. Probabilmente la tensione le arriva con un attimo di ritardo al circuito microfono. Come il microfono suo, perché io mi sta mancando la voce. No, lui c'ha il tarme, sta usando il tarme. Non lo so cosa sta usando, io sto usando la sua e lui sta usando la mia e gli danno sempre il solito problema. No, ma lui c'è quel microfono che c'aveva Claudio, quello, il Turner più 2 credo che sia, quello che è stata adattata all'impedenza. Non lo so, comunque no, non ha problemi, dai. Non c'entra, ne ho sentito l'altro giorno questa storia, non è. Sono tutte così, non è che arriva, scatta prima, dopo, no? Può essere il Turner che non schiaccia bene, alle volte se non schiacci bene ti fa quella roba lì. Boh, non lo so, fino a... te lo dico perché all'inizio magari lo facciamo un po' di meno, poi adesso l'ho notato, gli ho fatto, dico come schiacci, gli ho detto aspetta un secondo e poi parli. Stavo guardando un 940 qua, un laboratorio ne sta vendendo uno 500 euro e addirittura c'è scritto che è stato riallineato tutto quanto, garantito. Sì, questa è quella delle garantie. Ora che quella radio ne ho riparato un paio, anche una Claudio mi sembra, una volta l'abbiamo ricontrollato. Non tutta, è solamente in ricezione. Allora, quella radio ne ho riparato un paio, da un problema in ricezione, scalda, libera, fa la modifica, però, e poi comunque a parte quello, è una radio che se la prendi bisogna rifare la parte dell'alimentazione. Com'è, c'ha problemi? No, la radio dopo tanti anni l'ha alimentato l'interno, quindi io la mia l'avevo presa, che ne avevo comprato una a un bassissimo prezzo e me l'avevo messa a posto, aveva quel problema e poi aveva il problema, niente, avevo rifatto il condensatore, avevo rimesso a posto l'alimentazione e dava, addirittura l'avevo tirata sino a 200 watt perché non dava watt, e in genere danno problemi all'alimentazione, in genere. Cioè, diciamo che dopo tanto non sarebbe male rifare l'alimentazione, e molte danno di quei problemi. Ce l'ho avuto io, l'avevo meglio comprato, messo a posto e via. Quello ce l'ha alimentato dentro un contenuto, così fa. Sì, dentro è quello il fatto, bisogna aprire e vedere un attimino, alle volte cali di potenza, finché non dà problemi si tiene, è una bella radio, però mi sembra che. Però guarda che quella in AM non esce se non è il filtro, proprio non trasmette. No, qua c'è sito, c'ha tutti i filtri, questo qua, il prezzo è molto basso, per il prodotto è quello lì, perché normalmente un 940 non te lo vendono non meno di 700 euro se è efficiente, questo è un laboratorio, ha scritto tutto quello che c'ha, cosa è stato fatto, eccetera, eccetera. Non lo so, io radio vecchio, mi sono rotto le scatto, mi tengo giusto il mio 440, adesso ne ho un altro 440 che mi sto mettendo a posto, lo sto facendo tornare, questa di Riccardino, ho risolto anche il problema di quello degli splatter, aveva problemi, tutto lo smitter installato, aveva del QRM, eccetera, eccetera, avevo un bypassato, adesso gli ho fatto una modifica, perché avevano bypassato lì per farla sentire meglio in AM, capito? Però ci vuole il filtro, quindi praticamente lei esce, chiama in larga banda, per essere, se non scendere troppo tecnicamente, perché il filtro chiude a 6 kHz e quindi tu quando giri, infatti adesso che l'ho tutto rimesso a posto, la voce la senti all'interno dei 3 kHz, quindi non è bellissima. Allora gli ho messo un interruttore interruttorino dietro per bypassare il circuito suo, praticamente bypassi il filtro che non ce l'ha, e va bene così, però comunque poi lo rimetti a posto e torna normale senza filtro. Comunque per ascolto, tanto lui la usa solo un canale e ovviamente gli dà molti splatter, però se tu ti sposti anche dal 10 al canale 12 giri l'interruttore, quindi elimini questo ponticello che gli ho fatto per poter ascoltare meglio quando è sul canale 10 e non senti più niente, quindi quel difetto gliel'ho eliminato e adesso quando sei in AM e non c'è QRM, Santiago 0, Santiago S1, S2, normale, no? Prima avevi sempre 9-10. Ma la radio è spettacolare, cioè hai fatto un lavoro. Guarda, ti posso dire, con le altre, l'altra volta ti ho sentito quando ti ho detto che sembravi fuori frequenza. Cosa c'hai? 60? Adesso sto usando il 430 col 60. Guarda, c'è una radio speciale, Fabri, sembri tu qua a fianco a me. C'è una pulizia di modulazione perfetta, proprio naturale, non ha quella compressione che l'altro giorno ti ho sentito, ti ricordo, ho detto che eri un po' troppo compresso. Sembravi che fossi fuori frequenza, è pulita, proprio una radio speciale. Speriamo, perché ho dovuto riallineare anche il processore, ma ho toccato il processore, capito? Era incasinato il processore. No, guarda, infatti al primo momento non ti ho neanche riconosciuto, non, diciamo non ho fatto ascolto, ho sentito un attimino, non ho memorizzato la tonalità della voce e poi ho detto cacchio, va così forte, può essere solo Fabrizio, e poi mi hai anticipato. E poi proverò la mia, vabbè, il mio 440 lo sai come è, se questo adesso me l'ho messa sopra dove tengo in genere il mio 430, sopra il 440 e ho collegato il 430, quindi adesso sto usando questa per il cardino e vediamo un po', gli ho cambiato anche quel potenziale, quei non potenziale, quei commutatori, poi sperando che ogni tanto non gli manchi la potenza, me l'ha fatto una volta e ho fatto quella modifica che dice la Kenwood, c'è un richiamo, adesso lo farò anche da me, in effetti a qualcosa gliel'ha fatta. Speriamo, però se gli dà problemi non si può più mettere mano, radio troppo, però tanto te la porta a te, gliela darai, la vedrai come uscita, è molto bella, uscita i tasti tutti quanti smontati, uno a uno, puliti come vanno puliti, il frontalino riverniciato, tutti i cofani, tutto quanto, la radio sembra uscita da una scatola più o meno. Immagino, no, domani mattina deve venire le istruzioni di quel trio, le ho fatto le fotocopie di quel ricevitore con la valvola e poi mi deve portare 9000 selo, io voglio provarlo qua con le mie antenne a vedere se è sordo o che cosa, perché secondo me non stava andando bene quel ricevitore e poi c'aveva questi battimenti, cioè su frequenze inesistenti, non capisco se erano delle cose, non riuscivo a capire, cioè c'erano delle frequenze che non esistono, secondo me generate dall'apparecchio. Prova, prevedere la sensibilità, non ho problemi, io ho un generatore, quindi infatti questo apparecchio gliel'ho attaccato quando è proprio stasera, l'ho ripreso in mano, gli ho tolto questi problemi, meno male, molte volte conviene metterli via, adesso c'ho un 440 e mi sta facendo partire un oscillatore, gli altri 4 li ho messi a posto, mi sta facendo uscire di testa, quello ho proprio cambiato display, mi sta facendo uscire di testa, cioè non puoi immaginare, ho controllato tutto, deve andare per forza, non oscilla, infatti adesso l'ho messo da parte, mi ho preso quello del cardino, me l'ho terminato e poi farò quello che c'è da fare, poi lo riprendo in mano e magari con la mente più fresca, perché poi ti cervelli e basta. E quindi cosa ti volevo dire? A parte quello, che questo lo stesso aveva problemi, gli ho ritirato, l'ho rimesso in isofrequenza e poi gli ho fatto il sempre con lo strumento, gli ho tarato, ho fatto l'S0, l'S1 e l'S9, quindi a posto come smitter adesso, perché avevo problemi e avevano messo. Cosa è successo Fabio? Quello lì ogni tanto me lo fa, anche quello, questo qua me l'ha rifatto. Ogni tanto manca, però io qui non so dove metterci le mani. È mancata proprio la portante, ma che quasi parte sta uscendo? C'è qualche componente che sta riandando in perdita, vai e trovalo. Dove? Ma quanti watt sta uscendo quello lì adesso? Adesso così siamo 20 watt. Sì, sta andando molto bene. E Michi, che ha fatto la regolare? È intorno a 2. Va benissimo, no? Segnale forte, sei quasi 9.50, la radio eccellente. Ultima, magari può essere qualche componente, cosa va in protezione dell'apparato? No, dopo un po', hai visto, me l'ho rifatto, tac, cala la potenza, non va, se ne scende la potenza, aspetta un secondo, spegni e riaccendi e si riprende. Deve essere, anche questo, vai e trovalo adesso. Ma proprio zero, sei arrivato a zero, non è che ti sei abbassato, sei arrivato a zero, sei scomparso. Sì, perché non è che dice, entri sulla scheda filtri, ma sulla scheda finale, può essere tutta la catena, basta un condensatore in perdita, una fesseria, basta, vai e trovalo. Okay, io lo so, quando poi ci sono, più componenti ci sono, più perdi la testa per seguire tutto il circuito e i passaggi. Quindi oggi per esempio l'ho lasciato acceso 20 minuti e non me l'ha fatto, adesso l'ha fatto nuovamente, perché lo tengo sotto controllo, fanno partire, quando fa così non so più dove c'è quest'altra cosa qua. Purtroppo quando con l'apparecchi hanno 50 anni, bisogna stare attenti, anche se mai sono nuovi, mai usati, però la componentistica prima o poi decade, c'è qualche, sempre qualche problema. E adesso non ne voglio riaprirla. Se ce la fa domani do un'altra occhiata, chissà che non lo trovo, ma sarà di più, vediamo. Può essere, ed è una saldatura fredda anche, non ti credere? Già lo so, poi quando ci sono circuiti basta una fesseria, ti fa uscire di testa, bisogna fare la mente fredda, piano piano, perché poi ti mattiani il cervello, ci stai ore e ore lavorando consecutivamente e non lo trovi, poi male domani mattina appena apri, qui eccolo qua il problema. Te lo dico che capita anche a noi molte volte in officina. Sono qui in ascolto. Ma ti piace il tuo baracchino che sta usando Fabrizio, Riccardo? Sono la migliore ascoltando. Sì, bello, però ho sentito questo problema che molla la porta, come dire, la molla da sola. Già lo risolve Fabrizio, già c'è una modulazione spettacolare, bellissima, chiara, forte, sta tirando potenza. Ma questo cosa ti sembra l'SBA, il baracchino, quello con il Turner? Questa è una bomba, Riccardi, forse la più bella che c'hai tu. Bene, bene. Questa è quella che mi piace più di tutti. Purtroppo con quel 4.30 col Turner non è che va più che bene, di lì ci vuole il suo microfono che è il 60 e basta. La prossima spesa, buscati un 60 e stai andando alla grande. Può buscare anche un 90. Cosa? Si può buscare anche un 90. Ma più che non metti il 60 per la scatola chiusa e non sbagli, Riccardi. È un microfono che c'erano 10.000 CB, 10.000 radioamatori, è sempre andato bene, non ne ho mai sentito di problemi. Il 90 è poco usato, diciamo. Registrato. Vaffa, chi era quello che non mi sono accorto? Vabbè, va un medico, chiamo un medico. Non è arrivato. Che comunque è doppio rumo avanti. Ehi, buonasera. Siamo spostati, Robe, perché c'era tutta quella propagazione, si capiva un cavolo. Ma non mi piace la formulazione, cosa ha fatto? Sono da questa parte che sta andando male. Di cosa stai parlando? Ciao Fabio, mi sento. Cosa hai detto, Riccardo? Che ha detto qualche volta, lo sento male, anche prima sui 15 che stavo ascoltando. Stavo andando male, lo ascoltavo male. Dillo a lui, non lo so. Vai Gianni, un attimo. Guarda, è 1, 2, 3. Gli altri non mi hanno detto nulla, sei tu l'unico che me lo stai dicendo. Ciao, la fettatrice è accesa, la spegni già. Che cosa spengo? L'alimentatore. La fettatrice che c'è vicino, si sente male una fettatrice. No, l'alimentatore. Se non spengo mi spengo tutti gli strumenti, quello lì è quello che tiene accesi gli strumenti. E come mai si sente così forte, prima non lo sentiva? Che ne so, adesso l'ho spento, aspetta, mi sono messo al buio. Cosa vuol dire al buio? Cioè? Che aspetta tutti gli strumenti, ci sono tutti gli strumenti attaccati a quel alimentatore lì. E che cosa ha detto Fabio? Una betoniera accesa a Maria. Chiama il medico, io. Che è che ha detto il pogellofio già? Perché il medico Fabio? Adesso mi tocca spedire anche l'alimentatore, ma quando va. Mi senti male anche adesso, Riccardino. Fabio, perché hai detto del medico? Già che non entro mai, poi entro e mi prendi tutto a colpi, o ti chiedo i danni o mi chiami il medico. Ah, così è. Ok, c'era anche Fabrizio comunque poco fa. Non so se c'è ancora. Fabrizio, c'è ancora? Sì, già ci sono. Adesso tolgo, l'ho rimesso qua, adesso parlo. Chissà che non mi manchi un attimino, e così vedo un attimino se riesco a capirci velocemente. Se no è un problema. Ok, va bene, chi è che ha detto poco fa, ha nominato a Gianni, già se l'offio, avanti. No, non c'è problema, no. Chi è che ha detto avanti che stava dicendo già se l'offio a Gianni? Avanti che ti ho parlato sopra anche io. Avanti di nuovo. Ehi, dai, ciao Fabrizio, ciao anche a te, Emanuele, ci sentiamo, buonanotte. Sì, ciao Emanuele, ben sentito. Spero che oggi mi ascolti, almeno mi ha risposto, ieri non mi senti. Ci credo. Ma ci credi, la prima volta mi succede in vita mia che non mi ascoltino a Sassari, cioè che io sento la persona e lui non sente a me, il colmo a me, normalmente è sempre il contrario, che lui sente a me e io non sento a lui, invece qua è successo con... Ma perché? Ti è mai arrivato due storie, uno passa come me, e vai... Bellissima, io vado a Maria, poi dopo vi dico il menù, saluto a tutti, saluto ad Emanuele, a Gianni, Fabio, Roberto, Fabrizio e vado a mangiare, ci sentiamo dopo, mi stanno pure chiamando, chissà chi è. Ma con la fisarmonica ti chiama? Cacchio, l'allarme c'ha per andare a mangiare, tipo le mense. Senti, chi parla che c'ha l'ambulanza? È la mensa quelle dei coso, delle aziende, delle fabbriche. Da, da, da, da. Ora di mangiare, vai Gianni. Ciao Riccardo, buona carica, vai. A non mangiare troppo, se no poi non ce la fa parlare. Stavi dicendo Fabio, tu mi ammazzi lo smitter, non dico di ammazzarmelo ancora no, ma quando attaccherai mi brucerai il coso, lo stadio d'ingresso del ricevitore. Vabbè, scusa, che sono di pasta, arrivo subito. Ehi, fai con comodo. Ok, no, stavo dicendo Gianni, a te ti è mai capitato che uno, cioè che tu lo ascolti e lui non ti ascolta a te? No, che mi ricordi io no, Robè. Ma la prima volta c'è per tutto. Cosa ha detto Emanuele? Non ho capito, sei spento. Ha detto che ti sente. Eh sì, adesso mi senti, ma ieri o avanti ieri non mi sentivi. Io sono sempre uguale, le mie condizioni sono sempre quelle, la radio è sempre quella, l'antenna, il microfono, il trasmettitore sono sempre quelli. Infatti, considerando che io probabilmente sto uscendo con qualcosa in più di quello che stai uscendo tu, teoricamente ero io che non ti dovevo sentire, invece è il contrario, non mi è mai successo a me. E penso a poca gente è successo questo, ma a te ti è mai successo una cosa del genere? Di tutto di più. O non sentivo io o non sentivano gli altri e viceversa. Ma tu se stai utilizzando più potenza di uno, perché secondo me io sto usando più potenza di lui, c'ho un'antenna probabilmente meglio della sua, almeno penso, perché lui arriva basso qua e io riesco a tirarlo Santiago 7 e lui non mi ascolta per niente. Spiegami la logica. Non lo so, ricevitore suo meno sensibile, RFG per errore abbassato un po', non lo so. Emanuele, mi copi tu arrivi Santiago 7 modulato anche 8. E a me invece di radio, come arrivo Santiago di radio, Emanuele. Ah, quindi la radio mi ascolti, no, pensavo che mi tirassi dal fondo. Ok, vai doppio rumo. Ehi, ciao anche a te, Marcolino Condor, ben sentito, dai. Avanti Marco, ogni tanto fai cucù. Scusate, io ci sono ma non ci sono. Comunque Gianni, anche tu arrivavi a Milazzo, a Milazzo diciamo non forte come Tino, però a momenti arrivavi, quando facevate di Exemi, poc'anzi. Ma io ero con il vate dell'apparato, non lo so Tino se stavo usando qualcosa, però è interessante arrivare. Cioè arrivavate all'SDR di Milazzo, poi ho provato anch'io, però in FM, in banda laterale, arrivavo qualcosina, bassina, ma arrivavo, dai. Sono qua, sì, sempre, come non stavo usando, nel 747. No, io ero liscio, Tino, ero liscio, liscio. Vabbè, è interessante arrivarci. Io ero staccato, poi l'ho attaccato quando c'era quello di cosa che non mi sentivo, l'ho attaccato anch'io. Vabbè. Chi c'è che sono appena entrato? Chi c'è? Io, Fabio, Roberto Quadrato, Condor, Riccardino. No, perché ero sul 15, quando mi sono spostato, poi sono entrato, non c'era nessuno, guarda. sono passato qua direttamente. Va bene, ciao a tutti comunque. Ecco canale 10, becco. Sto splatterando, Roberto lo stava ammazzando a colpi, allora ci siamo ripassati qua. Ciao Tino, cos'è? Ho detto già. No, niente. Io stavo splatterando. Ehi, stavo splatterando a Fabio, non sentiva più a me, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di venire qua, capito? Vuol dire sbatterando? Io me ne sono andato qua, cosa dici? Fammi dire rottura, se no non mi capisce. Spiegami già, non ho capito. Io quando c'era quello del Milazzo ero sul canale 11 e poi siamo andati sul 13, ma non c'era nessuno sul 10. Io sto parlando di adesso, non di poco fa, di adesso, quando eravamo sul 15. Aveva colpi da te, quindi io ho detto io passiamo sul 10 così poi parliamo tutti, capito? Io quando sono entrato c'era già, mi sono entrato 5 minuti su questo canale, c'era coso, c'era prima di me Fabio. Vabbè, come non detto, lascia perdere. Cioè, non riuscite a capirmi. Fammi capire, io sono appena entrato già, posso capire altre volte, ma oggi non riesco a capire, se non c'ero come facevo a sbatterare? Se Fabio era già, quando sono arrivato c'era Riccardino e boh, non c'era nessuno, e Fabio. Fabio cosa ti ha detto? Che bisogna andare dal dottore per i colpi che ha preso, mira te, hai capito adesso? E quindi li ha presi dopo, voi eravate su un altro canale. Io non me ne sono neanche accorto perché avevo acceso in quell'istante lì che è entrato Fabio. Aspetta, basta con le amenità. Gianni, glielo puoi girare a Tino un video breve? Gianni. Fabio. Stampa. Fammi capire, tu hai detto al dottore perché sta riprendendo, sbatte da me. Quando tu hai detto al dottore, io sono entrato in quell'istante lì, non è che sono entrato molto prima, perché ero a mangiare, ero appena entrato, un secondo, quanto sa, 30 secondi prima. Ah, guarda, non è sul 15. Io ero sul 15. No. Insomma, cosa c'è oggi? No, state facendo casino. Allora, io, Gianni, eravamo sul 15, e Fabio, eravamo sul 15, e tu invece Gianni, scusa Roberto, eri sul 10 che stavi splatterando a Fabio, ecco perché hanno deciso di passare sul 10, questo è quanto ho capito io. Ma scusa, se io non c'ero, io sono entrato nel momento che Fabio ha detto il dottore, in quel momento lì, come faccio a sbattere se non c'ero? Non riesco a capire quello. Allora chi era? Ma insomma... Non ero io Fabio, se no ci mancherebbe, che cosa ne avrei da dirti? Tu, io sono entrato nel momento che tu hai detto il dottore, infatti non riuscivo a capire quello, sono entrato un secondo prima di te, o in contemporanea. E allora c'era qualcun altro che mi stava smatturando di brutto, perché sono un po' confuso, perché ho tre apparecchi accesi, cioè il cervitore, la stazione e questo del quale sto parlando. E dunque, quando siamo spostati, ho mosso solo questo del quale stiamo parlando, ho alzato un po' il volume e abbassato quello degli altri. Però sentivo rumorarci sotto, dunque ho messo la stazione di ricezione, ma la stazione era distrutta da questo splatter, capito? Non lo so, siamo entrati pochi secondi, ma solo per sentire la radio con Coso, con Fabrizio, che stava provando la radio di Coso, di Riccardino e basta. Poi siete entrati voi, ma fai 30 secondi, non di più. Capo, qualcosa del genere, sì. 30 secondi no, ma magari un minuto. Un minuto sì. Sì, ma non è che sono stato ore e ore, cioè io, per come stavate parlando voi sembrava che ci fosse stato un sacco di tempo. Sono entrato pochi secondi prima di che tu dici il dottore. Infatti ho detto c'è anche Fabrizio che sta provando apparecchio. E buh, ho fatto un passaggio abbastanza corto. Tra l'altro poi si è bloccato pure un paio di volte con l'apparato, non abbiamo neanche parlato, cioè discorso lungo non l'abbiamo fatto. Vabbè, noi non abbiamo parlato né di ore, né di minuti, né di secondi. Lui, io ho fatto un passaggio e metto, non ti ascolto perché c'ho uno splatter da Roberto che sta dando colpi. E io gli ho detto, io passiamo sul 10, tutto lì, ma non ne deve fare una polemica. Ogni volta una polemica delle cose che dico. Mamma mia, cercate di essere più... C'è sempre polemiche, in ogni cosa, ogni cazzata fate una polemica. Fioratici, scusate un attimino, datemi un controllo a me invece che sto utilizzando un'altra radio. Grazie. Stampa radio forte, il segnale è come quando è ribasso con l'altro. Sì, questo è il presidente, dai, volevo farlo sentire a Fabrizio se c'è ancora. Robè, come va per te? La radio è bellissima, forte e chiara, 9 più 15 il segnale, niente di più da pretendere. Bene, non c'è bisogno di amplificarla di più, vero? No, assolutamente. Bene, bene, sono contento. Fabrici, sì? Sì, no, ma ci stai uscendo? Guarda, non lo so, sono il fatto dell'apparato, perché credo che siano a bordo massimo 18 watt, 15 watt, 12, non ti dico una stupidaggine, non lo so. Ho fatto una prova poc'anzi, ma ho aumentato tutti i watt e esce compresso, quindi preferisco lasciarlo così. Ma è l'apparato che stai regolando di potenza che poco fa? Sì, esatto. Adesso è tenuto basso allora. Tenuto basso, non lo so, guarda. Perché se aumento, cioè, mi accendo la luce perché sono. Se aumento credo che vada in saturazione. Ma poco fa, quando hai detto così sono basso, adesso lo alzo, faccio vedere ancora basso e di questo segnale. Invece quando hai alzato, sullo smicchierino della stazione che uso per ricevere con un pezzo di antenino, si è passato.